Ah, eravamo già... Mannaggia. L'introduzione, parla di ciabatte. Perfetto, sarà un'ottima introduzione. Quindi, benvenuti. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori all'ottavo episodio del nostro focolare elettrico. Oddio, nostro... sono l'ottavo? Non finiremo dovrebbe più. Dovrebbe essere l'ottavo, no? È vero. Episodio numero 8 del nostro focolare elettrico, podcast su game design e videogiochi. Io sono Marco. Io sono Jacopo. Non mi stancherò mai di farla questa cosa. Io ti odio. E per continuare, la nostra... non è una metafora, analogia? Cos'è questa cosa? Pazzia, probabilmente. Questa pazzia sulla... questa pazzia sulla... sulla rappresentazione di un videogioco. In questa puntata, che si intitola Inventory Full, parliamo appunto dei sistemi di inventario dei videogiochi. Dopo che abbiamo abbiamo parlato delle quest due episodi fa, no? Abbiamo detto che le quest danno le ricompense, una di queste ricompense è l'esperienza, come abbiamo parlato nella puntata precedente. Sì. E la seconda cosa che di solito una quest dà in, come ricompensa è quella che probabilmente i miei giocatori di D&D saranno d'accordo essere la cosa più importante che al mondo a questo punto, no? L'onore? L'amore? No, il loot. Esatto. Se noti che il mestiere più vecchio del mondo non è la prostituta, ma è il looter. Esatto. Che va a solo per gli oggetti. E una volta che hai ottenuto questi oggetti, dovrai pur metterli da qualche parte. Ed è qui che entrano in gioco i sistemi di inventario. Ora, noi partiremmo a parlare dei più classici... definiamo innanzitutto che cos'è un sistema di inventario. Il sistema di inventario è quella meccanica di gioco che ti permette di solito appunto trasportare oggetti con te. Ti permette di raccogliere, immagazzinare e poi successivamente utilizzare in un secondo momento degli oggetti che trovi durante la tua avventura. E questa meccanica è stata, diciamo, alla base di tutti i giochi di ruolo più classici. Si parte proprio dal primissimo, si chiamava Zork, no? L'avventura testuale, ah, sì. di tanto tempo fa. Penso sia stata, credo fosse la prima ad utilizzare un sistema di inventario, dove appunto tu dicevi, dove scrivevi su console del computer raccogli spada e poi dopo potevi leggere mostra inventario e vedere che nel tuo inventario effettivamente c'era la spada che avevi raccolto. Inventario, diciamo, deriva da una come posso dire, un vocabolario logistico, no? Tu c'hai un magazzino con delle cose dentro, con dei prodotti dentro. Da qualche parte ci sarà un inventario, ci sarà una lista degli oggetti nel magazzino, ordinata in un certo modo, con dei riferimenti fatti in un certo modo, per tenere il magazzino in ordine, diciamo, per mantenerlo... Per sapere quello che possiedi, effettivamente. Credo che deriva da lì. Sono andato totalmente a casaccio, non ho fatto nessuna ricerca. Vediamo come il dizionario Treccani definisce l'inventario. Esatto. No, Jacopo ha detto una cosa giusta, ha parlato di una lista di oggetti, perché effettivamente i primissimi inventari erano questo, tutto sommato, erano liste di oggetti che ti apparivano in una schermata che aprivi, oppure mettendo il comando su linea testuale se si tratta di Zork. Poi ovviamente questi sistemi si sono evoluti con le interfacce grafiche, si sono abbelliti, non c'era più la linea di comando, ma siamo passati ad avere prima icone per rappresentare gli oggetti, poi anche vere e proprie full art. Ci sono giochi che spendono un sacco di tempo e di risorse per rappresentare gli oggetti che puoi raccogliere durante l'avventura. Ma questo sistema classico dei videogiochi di ruolo si è portato avanti anche fino all'età moderna. Pensiamo a giochi come Skyrim, Final Fantasy o Zelda, alla fine i principi sono rimasti sempre quelli. Hai questa schermata dove appunto gli oggetti vengono rappresentati come un elenco, a volte rappresentati da iconi, da immagini, e è una cosa molto fantastica quello che rappresentano. L'inventario tipicamente non ha un limite, oppure se ce l'ha è molto, come dire, non limitato da regole fisiche simili a quelle reali. Non esiste un peso massimo trasportabile, puoi metterti in tasca oggetti di enormi dimensioni e cose del genere. E, è giusto un sistema per dire questo è quello che hai collezionato durante la tua avventura. E questo è proprio un sistema base. Se volete un esempio classico, pensate a giochi, appunto, come dicevo, Skyrim, in cui ti puoi mettere in tasca le ossa di drago che pesano tonnellate, poi dopo... Vabbè, lì c'è un limite però di peso. Giustamente, perché effettivamente alcuni giochi hanno cercato di, come dire, tra virgolette, rendere più realistica questa cosa. Ma no. Realistica è la parola sbagliata. Più interessante forse. Interessante, effettivamente questa è una parola molto più azzeccata. Più interessante questa meccanica. Parola che a te piace molto, una scelta interessante. Porto questo osso di drago o 200 grimaldelli che pensano come un osso di drago per qualche motivo. Vabbè. Quindi sì, questa era l'idea di base. Ecco, un esempio veramente classico è l'inventario dei Pokémon. Quello del ragazzino di 10 anni che parte di casa con uno zaino che poi riempie con centinaia di oggetti senza peso e senza dimensioni. Ci sono tipo qualche quintale di bacche che non vanno mai a male, biciclette, cane da pesca e mille pozioni per citare alla Lega. Cavolo! Chissà, come si chiamava il tuo personaggio su Pokémon da piccolo? Io ero molto originale, lo chiamavo sempre Mark, quindi... Ah, pure io lo chiamavo come me. Mai stato molto bravo con i nomi. Io non chiamavo... esatto, io non andavo nessun nome Pokémon pure. No, cioè, nemmeno io. Assolutamente. Però, quando... La cosa bella di quel gioco è che potevi scegliere il nome del tuo rivale, del tuo... E io lo chiamavo sempre Scemo. queste cose molto, molto adulte. Vabbè. Ci sta. Intelligenti. Quanti anni avevamo? Scusa per... Vabbè, sì. Quanti anni avevamo quando abbiamo giocato gli ultimi Pokémon? Voglio dire, 23, 24 anni. L'anno scorso. Più o meno. E quindi, questa era... È la meccanica di inventario più base che esiste. Un elenco di oggetti illimitato, più che illimitato a volte, come dire, illimitato in quanto quantità, a volte predefinito, perché essendo appunto videogiochi un qualcosa costruito, un qualcosa di immaginato e programmato, l'infinito non esiste, quindi... Tipicamente un esempio è quello di Final Fantasy, che alcuni di essi hanno un elenco di lunghezza predeterminata. Tu puoi già vedere fin dall'inizio tutti gli oggetti esistenti nel gioco, solo quelli che non possiedi sono ingrigiti, sono, come che si dice, sono resi non disponibili non raccogli la prima copia di quell'oggetto. Quindi sistemi di senza peso, senza limitazioni, solo per rappresentare gli oggetti che hai incrociato durante la tua avventura. Questi sistemi poi sono stati evoluti con il passare del tempo. Skyrim è un esempio, devo ammettere che non mi ricordo com'erano gli inventari dei giochi precedenti a Skyrim, perché Erano simili. Erano simili, se non ricordo male. Sì, non interfaccia, però... Diciamo il fatto del limite di peso, mi sembra, esatto. Anche hanno cercato di rendere più interessante anche la meccanica dell'inventario. Quindi un guerriero che va in giro a combattere per la terra di Skyrim non può portarsi dietro infiniti oggetti, ma comunque un limite di peso, che è una meccanica che va a influenzare le sue scelte di oggetti che può portarsi dietro. Poi ci sono giochi che la prendono meno seriamente, come Skyrim, appunto, il cui limite di peso è comunque irrilevante molto spesso, che puoi portarti comunque dietro 200 pozioni curative senza problemi, avere ancora spazio per svariati ossi di drago. E altri giochi che invece hanno costruito molto di più su aspetta, questo. Aspetta, prima di andare avanti, una cosa. Questi due sistemi, cioè questi sistemi, scusami. Assolutamente. Il sistema di Skyrim e anche un sistema simile su The Witcher 3. È interessante perché li hanno rilasciati, la gente si è lamentata perché non era abbastanza fruibile per i giocatori su PC, e poi li hanno cambiati. Cioè, questo non lo sapevo, racconta. Questo, vabbè, magari ne parliamo dopo quando parliamo di interfaccia, però è interessante perché, diciamo, in molti giochi lo sviluppo dell'inventario è lasciato un po' indietro rispetto magari al resto del gioco, come design, perché è visto come una cosa necessaria a volte, non come un modo per migliorare il gameplay o per introdurre delle meccaniche o per rendere più interessante il tutto. Infatti, cioè, in giochi come Fallout o Skyrim della Bethesda è quasi sempre lo stesso. Parliamo dopo dell'interfaccia, però volevo dirti che in Skyrim e in Fallout, negli ultimi Fallout, anche gli NPC hanno un sistema di inventario. Ah, sì, assolutamente. Cioè tu puoi, se hai un companion, cioè un personaggio non giocante che ti segue, puoi dargli roba da portarti, tipo un cavallo, come il cavallo di The Witcher 3, dall'altro. E se vai tipo a rubare, anche in Divinity 2 puoi farlo, se vai a derubare un NPC avrà degli oggetti nel suo inventario. Questo è molto figo perché, cioè, sono come te, tra virgolette, sotto quel punto di vista, no? Esatto. Però, diciamo, nell'intelligenza artificiale hanno delle linee di codice che interagiscono con l'inventario. Quindi, per esempio, se devono combattere e non hanno un'arma, la cercano intorno a loro. Quindi tipo caprono i forzieri e poi derubano dei cadaveri per prendere un'arma e combattere, che è molto figa come cosa. Dici, cavolo, hanno un inventario e si rendono anche conto di che cosa hanno nell'inventario, di cosa devono fare. Il problema è che in Fallout 76, Fallout 76, che è un gioco online, questa forse la sai, hanno rilasciato un aggiornamento recentemente mettendo dei personaggi non giocanti, perché prima non c'erano, perché era un gioco di merda, incompleto. Mamma mia. E volevano far finta che fosse quello il senso, in realtà semplicemente ancora non l'avevano fatto. Li hanno messi, quindi adesso c'erano delle persone finte, cioè dei personaggi del computer che vanno in giro. E tra l'altro la gente è sconvolta, sì. Perché NPC nel 2020, complimenti. Mamma mia, complimenti. Addirittura. Ma la cosa bella è che questi NPC che vanno in giro hanno la stessa intelligenza artificiale di Fallout 4, che è un gioco single player. E quando un giocatore gli muore vicino, loro automaticamente derubano tutto. Quindi c'è gente che gioca a quel gioco, penso ci abbia giocato, non so, 5.000 ore, perché sono dei deficienti che non capiscono. No, scherzo, vabbè, puoi giocare a quello che vuoi, però c'è gente che, nonostante tutti i difetti di quel gioco, perché ne aveva tanti altri anche prima, ha perso tutto perché questi qui li hanno derubati, questi personaggi non giocanti. E il bello è che questi qua si prendono solo armi che sono più potenti delle proprie, giustamente, no? Perché non è che se hanno l'arma finale vanno a prendere la spadina. Quindi adesso i personaggi non giocanti dentro quel gioco sono i personaggi più potenti di tutto il gioco, perché asintoticamente, cioè, sono andati sempre a prendere armi più forti finché, cioè. Questa, però scusate, questa cosa è geniale in un certo piccola senso. Digressione simpatica su questi sistemi classici. Questa spero che non la patchino, sinceramente. Però volevo anche dire un'altra cosa, che prima di andare avanti, esistono anche giochi che hanno un sistema di inventario senza in realtà avere un sistema di inventario. Perché adesso noi stiamo parlando di RPG, cioè di giochi di ruolo, dove spesso, no, hai bisogno di gestire tanti oggetti, tante armature, cose diverse, oggetti della storia, oggetti da usare, pozioni. Però magari esistono giochi più semplici. Non so se è qui che stavi andando dopo questo. Vediamo, prova. Su cose meno classiche, tipo, che ne so, anche un gioco sparatutto può avere un inventario. Nel caso di Halo, che volevo portare come esempio primario, il tuo inventario, tra virgolette, in realtà è nella tua testa. Cioè hai un... L'inventario principale di Halo è che hai due armi, quindi l'arma che vedi e un'altra arma che non vedi che ti devi ricordare, le munizioni che sono nel tuo caricatore attualmente, e le granate. Ora, in realtà, vabbè, le granate le vedi e le munizioni totali le vedi, però durante il combattimento devi tenere un po' a mente, no? Più o meno quante munizioni ti mancano, se devi ricaricare, qual è la tua altra arma, ed è molto semplice ed è molto, appunto, interessante, perché ti costringe a fare delle scelte durante il gameplay, cioè ti costringe a scegliere solamente due armi, e sembra una cosa banale adesso ormai, no? Cioè adesso quasi tutti i giochi sparatutto hanno un inventario limitato, però Doom, in realtà anche Doom moderno, però Doom passato, in realtà avevi tutte le armi sempre a disposizione in ogni momento. Half-Life 2, che in realtà è abbastanza recente, però cioè questo per dire, limitare l'inventario e semplicemente avere degli oggetti da gestire a volte appare, è una cosa che appare anche in giochi che non sono giochi di ruolo. Assolutamente, era proprio qui che stavo andando a parare. Perfetto. Parlando appunto dell'inventario come elemento di gameplay. Questo tuo esempio che hai fatto appunto di limitare il numero di armi disponibili al giocatore in Halo, per esempio, ha avuto un estremo successo all'uscita di Halo, perché metteva quella componente in più di strategia in un classico gioco di cui il gameplay era giusto quello dello sparatutto, cioè tu andavi in giro a sparare alla gente ma non ci stavi troppo a pensare sopra. Adesso con questo elemento di limitazione dell'inventario si aggiungeva la meccanica appunto del dover scegliere quale arma portarsi dietro e il rischio che comportava prendere l'arma sbagliata in una situazione sbagliata, perché potevi dare vantaggio al tuo avversario. Certo, assolutamente. Oppure certo. Appunto anche quello di come ridistribuire le armi durante in un team, perché se tutti si portavano dietro solo certi tipi di armi, allora le loro strategie sarebbero state limitate rispetto a una maggiore varianza dell'equipaggiamento. E appunto questo è l'introduzione al... Questo un po' di meno, però... Cioè, beh, devo ammettere che Halo... tantissimo ad Halo. Diciamo che Halo... Questo immagino parlassi del multiplayer. Sì, esatto. Diciamo che Halo è un gioco molto diverso in single e multiplayer. In single player devi stare più attento, secondo me, a munizioni e qual è l'arma migliore per una particolare situazione, che comunque è una cosa figa, cioè un sacco figo il loop, diciamo, principale nella campagna, però la campagna sarebbe appunto la storia principale, però nel multiplayer, quando devi giocare contro altre persone, spesso il gameplay è comunque incentrato nell'inventario, però nel senso più del tipo che arma usare in una certa situazione e intorno a quale arma giocare, cioè nel senso proprio fisicamente in quale punto della mappa ci sono le armi forti, quale persona della nostra squadra è più bravo con quell'arma e come riusciamo a tenere il controllo di quella zona. È comunque tutto dovuto alla limitazione appunto nel tempo e nel, appunto nelle quantità che hai nell'inventario delle armi comunque. Direi che la spiegazione di Jacopo è azzeccatissima, non avrei potuto dirlo meglio, anche perché di Halo ne sa molto più lui di me. Ma Halo non è l'unico che ha sfruttato, come dicevamo, l'inventario come elemento di gameplay, ma anzi ci sono stati giochi che sono appunto ricordati per come hanno deciso di sfruttare il loro inventario. Partiamo proprio dal classico, uno degli esempi più classici è... sono quelli in cui Oddio, non ho cercato se c'aveva un nome ufficiale questo tipo di inventario, ma sarebbe l'inventario a caselle, praticamente. Quello classico di giochi come Diablo, Resident Evil 4, anche Deus Ex Human Revolution l'ha usato di abbastanza di recente. Oddio, di quando è Human Revolution? Probabilmente ormai di 10 anni fa, quasi. Eh sì, forse sì, quasi. E in questo caso l'inventario viene rappresentato proprio come da una scacchiera, diciamo, da una schermata a caselle in cui ogni oggetto che il giocatore può raccogliere occupa un certo numero di caselle, quindi un certo spazio nell'inventario. Quindi non esiste più solo la limitazione tra virgolette del peso, che è solo un indice, un valore numerico che non dava senza troppe conseguenze, diciamo. Ma in questo caso l'oggetto, occupando uno spazio su questa scacchiera, doveva anche incastrarsi in una specie di mini gioco del Tetris con gli altri oggetti già all'interno dell'inventario del giocatore. E questo è una cosa che ha avuto molto successo, che io personalmente io ho sempre trovato insopportabile. Dirò, anch'io. Quello, anch'io sono d'accordo, cioè abbastanza tedioso a lungo termine sto minigioco, diciamo. Io invece però ho anche sentito di persone che questo minigioco, tra virgolette, di riorganizzare gli oggetti all'interno dell'inventario, stare tutto quello che riuscivano a trovare, lo trovavano estremamente divertente, e posso anche capirlo in un certo punto di vista. E è una cosa che uno non ci dà troppo peso, ti dice, ok, questo è un sistema di... Qualcuno ha dovuto fare il design di questa cosa, ha pensato, ma perché non mettere questo anche qui, anche in questo sistema che davano tutti per scontato? Perché invece... no? Questo... Esatto, perché no? Perché no? No, allora posso capire Resident Evil 4. Cioè, lo perdono, mettiamola così. Perché comunque è un survival, non lo so, cioè io volevo fare un po' l'esempio con Dead Space, nel senso che a volte il fatto che un sistema di inventario ti rende le cose difficili, ti rende le cose tediose o magari ti rende le cose pericolose, come nel caso di Dead Space, perché in Dead Space la cosa che mi è piaciuta parecchio è che tu premevi il pulsante su dell'inventario per vedere l'inventario e il gioco non si ferma, come in Dark Souls, che poi ne parlerai meglio tu, però il gioco continua a girare, quindi se sei in una situazione non proprio sicura, stai un po' con l'ansia, oddio, ma se qualcuno mi prende mentre sto smanettando con le cose, sto spostando cose, sto usando degli oggetti, sono nei cazzi. E infatti succede spesso questo, cioè, succede 3-4 volte, però cioè, anche se non sopporto... Io credo che non ne sono sicurissimo, mi sembra di aver letto che era forse anche una cosa un po' programmata questa cosa, che... Sì, possibile, sì. Che reagiva al tuo aprire l'inventario in zone particolarmente pericolose e... Molto possibile. Rispondere di conseguenza. È giusto perché punisci, ed è una cosa, cioè lì è quasi, è proprio il punto della cosa, no? Cioè è proprio il motivo per cui è fatto male, tra virgolette, cioè. No, ma vabbè. È funzionale per l'idea di quel gioco, quel gioco vuole dare tensione e terrore al giocatore che si trova in questa stazione spaziale abitata da alieni mutaforma, non era mutaforma la parola che stavo cercando, era... alieni orripilanti, mettiamolo. Ok. Ma sì, appunto questa idea di ansia e oppressione che si voleva dare al giocatore anche in questo momento che normalmente dovrebbe essere, tra virgolette, di pausa, cioè permettere al giocatore di osservare gli oggetti che possiede senza preoccupazioni, veniva sfruttata per dare ancora più panico, per mettere ancora più paura nelle vene del giocatore. E questo è un altro esempio di come, di nuovo, l'inventario ritorna a far parte del gameplay, ma non è l'unico. Un altro esempio che a me è sempre piaciuto molto è l'idea dell'inventario estremamente limitato, quello in cui, appunto come diceva Jacopo prima, per esempio, delle due armi con Halo, ma Un altro esempio che mi viene in mente è quello di Darkest Dungeon, un gioco di esplorazione slash sopravvivenza, se così si può dire, in cui il giocatore deve gestire un gruppo di eroi, si chiama proprio il gioco eroi, quindi, e mandarli in esplorazione in questi antichi dungeon, gestendo meccaniche appunto di combattimento, ma anche di salute mentale, fame e altre cose non troppo piacevoli. Ma un elemento molto interessante di questo gioco era che l'inventario di oggetti che il giocatore poteva portarsi dietro durante una singola esplorazione in un certo dungeon fosse estremamente limitato, e non solo il giocatore doveva scegliere cosa portare con sé all'inizio della sua esplorazione, ma doveva anche considerare quanto spazio gli sarebbe servito per portare indietro, portare a casa i tesori che avrebbe trovato durante questa appunto esplorazione. Quindi era questo bilanciamento di o sfruttare tutto lo spazio disponibile per portarsi dietro provviste, torce per illuminare la strada, pozioni curative, tra virgolette, non c'erano proprio pozioni curative, ma c'erano tipo antidoti o altri oggetti che ti permettevano di superare ostacoli che incontravi durante la strada, oppure lasciare spazio per portarsi dietro l'oro e gli oggetti preziosi che trovava durante le sue avventure. E questa meccanica veniva ulteriormente sfruttata perché uno di questi personaggi che il giocatore poteva scegliere per esplorare un dungeon era un personaggio che aveva un'interazione particolare con l'inventario, ovvero ti aumentava tecnicamente lo spazio disponibile del tuo inventario. Ma che banalità! Dai! Che ne so, io mi aspettavo che lo mettesse bene in ordine, che ci avesse delle cose, non lo so. Era questa sempre questo pro e contro di questo personaggio che non è estremamente forte in combattimento, anzi, no, era molto di supporto, poteva dare una mano in combattimento, ma non era molto, come dire, non era l'ideale nei momenti di maggior difficoltà, ma ti permetteva di riuscire a prendere e trovare, oltre a farti trovare anche più ricchezze in generale durante un'avventura, ti permetteva di portarne di più a casa, e quindi dovevi decidere bene se bilanciare questa cosa di portarti dietro questo personaggio meno forte ed ottenere qualcosa in più in cambio. E l'ho sempre trovata molto interessante come meccanica. Però non so se io a Darkest Dungeon non ho giocato, però in Darkest Dungeon, ma anche negli altri giochi che abbiamo fatto prima, c'è questa nozione, forse, che gli oggetti dell'inventario sono come bloccati nel tempo. Cioè che se non hai un oggetto in mano, di solito rimane identico, cioè quando lo ritrovi, quando lo riprendi, è identico a quando lo hai lasciato nell'inventario. No? Sì. Ok. Vaffanculo Monkey Island. Cioè, il Monkey Island, non so se è questo che volevi dire, che anche tu hai scritto nell'elenco. Continua tu, vediamo se... Allora, c'è un puzzle che secondo me è sia geniale sia malefico, dove tu devi trasportare un bicchiere di grog da un punto all'altro dell'isola, dell'isola dove sei, appunto, Monkey Island. C'è il grog, che è questa bevanda che bevono sti pirati, sti marinai, molto forte, talmente forte che scioglie il boccale in cui la metti, sta bevanda. Quindi io, cioè, veramente ci ho perso, penso, un'ora e mezza a capire come fare questo puzzle, perché io mi spostavo, e fino a quel momento il gioco, appunto, le cose che mettevano nell'inventario rimanevano lì. Cioè, non è che... Non pensavo che passasse il tempo anche nell'inventario, perché soprattutto è un gioco di avventura, no? Cioè, un gioco puzzle game molto... Avventura grafica. Avventura grafica, sì, scusami. Avventura grafica, non so se ne abbiamo mai parlato, perché è un genere che è un po' scomparso, ma a me piace molto. Praticamente è molto più concentrato sulla storia e sul dialogo che non magari sulle meccaniche, su appunto, cioè, diciamo che le sue meccaniche di base sono quelle dei puzzle game. Di solito ti mettono di fronte a una situazione raccontandoti una storia e tu devi risolvere capendo, magari appunto trovando un oggetto necessario per risolvere un enigma, oppure combinando come, scusa? Combinando oggetti, eccetera. Combinare oggetti per appunto per trovare la soluzione a vari indovinelli, a vari puzzle. E io effettivamente volevo parlare più di questo, appunto, di come questi tipi di puzzle games, queste avventure grafiche come Monkey Island o volevo dirne altre, adesso ovviamente non me ne sta. Ah, dobbiamo fare la puntata su avventure grafiche, basta, hai rotto le palle. Assolutamente. Usassero appunto l'inventario come, non tanto come meccanica aggiuntiva, ma proprio come meccanica di base del gioco. Cioè il tuo obiettivo era trovare oggetti per risolvere enigmi, e questi oggetti andavano a finire nel tuo inventario, che ti permetteva di ricombinarli e riutilizzarli in vari modi. Sì, sì. Cioè, lì però, diciamo, nel caso che stavo dicendo, alla fine la soluzione era travasare il grog da un boccale all'altro, da uno pieno a uno vuoto, continuamente. Quindi, cioè, la cosa strana in realtà è usare tanto l'inventario, perché è una cosa che di solito tu fai con mini due oggetti e poi è finita. Invece lì, diciamo, nei giochi di avventura grafica non è normale usare tantissimo l'inventario. Cioè, lo usi come un appoggio per risolvere enigmi, mettiamola Infatti, così. E di solito non hai un timer, non hai tempi stretti. l'esempio che ha fatto Jacopo mi sembra uno dei migliori per spiegare il grandissimo successo che ha avuto Monkey Island. Cioè, è riuscito a essere molto originale anche nello sfruttare il suo inventario, che come parte di un enigma stesso, praticamente. Che odio. No, vabbè, è intelligente, però che odio, mamma mia. Allora, stavo cercando di farmi venire in mente qualche altro. Adesso non me ne sta venendo in mente Avventura nessuno. grafica? L'avventura grafica di quel. Ah, Broken Age, Deponia, Machinarium. No, Machinarium che cos'era? No, mi sa che era Macchinario? un'avventura grafica, mi sembra. No, Ma anche The Walking Dead, tecnicamente, tutte le serie Telltale. tutte le serie. Però forse che lì forse ci sarebbe da fare un'altra definizione. Non mi sembra che usassero molto l'inventario. No, è vero, lì lo usano molto poco. Erano più, come si chiama, visual novel quasi quello. Sì, lo usano molto poco lì. Cioè, lo usano, ma è molto limitato. No, vabbè, Thimbleweed Park, i vari Maniac Mansion, i vari Day of the Tentacle, Tutti quelli Full della Throttle, sì. Tutti passata, anche tutti quelli bellissimi, tra l'altro. Se vi capita di recuperare le versioni rifatte, Full Throttle è stupendo, ma anche Day of the Tentacle e soprattutto Grim Fandango è spettacolare. ce n'era uno parlo un attimo mentre lo ritrovo, perché ce n'era uno che e mi aveva l'ho visto, ho visto un gameplay, mi ha meravigliato per quanto fosse. Bello visivamente o interessante? Forse era Thimbleweed Park, in effetti. Ah Molto sì, strano. era quello lì. Sì. È molto strano. Era Thimbleweed Park, che non è vecchissimo, è uscito nel No, no, è 2017. nuovo, è molto retro però. Infatti, era molto retro, infatti era quello lì che mi aveva particolarmente impressionato. Kentucky Route Zero. No, faremo l'episodio apposta. Ma questi non li metto neanche nei giochi citati perché dobbiamo fare l'episodio apposta. Va bene. Un ultimo accenno che volevo fare in questa parte di inventario come gameplay era quello, forse due esempi ancora. Uno era di The Binding of Isaac, Strano. uno dei miei giochi Dovremmo fare preferiti. la sezione dopo la sezione alla fine, anzi, prima della sezione alla fine dovremmo fare la sezione Binding of Isaac. Non ho parlato che neanche così tanto. Devono ancora arrivare i punti di cui voglio parlare molto di domani. Che effettivamente ha un concetto particolare di inventario, visto che tutta la struttura del gioco si basa sulla raccolta di oggetti come potenziamento. Tu semplicemente hai questa lista di oggetti che puoi decidere di raccogliere oppure no, e poi dopo, perché una volta raccolti non li puoi più lasciare. E questo, ok, questa è, diciamo, la metà dell'inventario. Un'altra metà è quella degli oggetti consumabili, ovvero delle monete, delle chiavi e delle bombe, che sono dei semplici contatori con un limite massimo di 99, ma che rappresentano in maniera interessante una delle meccaniche base di The Mining of Isaac, ovvero quella della gestione delle risorse. Infatti uno degli elementi principali è appunto il dover decidere quali risorse sacrificare per ottenerne altre, quali decidere invece di tenersi per dopo. Questo, diciamo, tra virgolette, inventario di monete, bombe e chiavi rappresenta una delle scelte principali che deve fare il giocatore. Deve decidere in una certa stanza di un certo piano sacrificare delle bombe per ottenere delle, o magari delle chiavi per ottenere delle bombe. E questo si può poi risentire su tutto il resto della partita. Questa è una cosa che mi sembra. Questa è la decisione più condivisibile, più classica, no? Scegliere fra una chiave o una bomba. Questa era, come si dice, è la decisione più semplice di un approccio ad un problema, ad un gioco. E noi scegliamo sempre nessuno dei due. Invece, come ultima cosa prima di passare all'argomento successivo, era giusto un accenno a quelli che vengono chiamati i key item, ovvero volevo parlare di come effettivamente un altro modo di utilizzare, tra virgolette, l'inventario come meccanica, come parte del gameplay, è quello appunto di rendere veri, non tanto veri, ma come dire, parte dell'avventura, oggetti necessari per far trama, tipicamente, oppure oggetti necessari per risolvere una quest. Questi oggetti vengono tipicamente chiamati key item, ovvero oggetti chiave, quelli necessari per non lo so, nei Pokémon i più classici erano quelli che potevi tenere una volta sola e poi dopo ed erano necessari per superare certi punti, oppure come per esempio le HM, le Hidden Machine, che ti permettevano di segnare le mosse particolari di Pokémon e erano oggetti che dovevi procurarti durante l'avventura per poter proseguire. Aiutami Jacopo, altri esempi, tutti gli oggetti chiave di Skyrim, di tutti i giochi di ruolo che... Intendi quegli oggetti chiave che non potevi raggiungere per un bug su Skyrim? Scusa, non volevo fare questa... No, vabbè, sì. Cioè, sono oggetti che alla fine quasi ti costringono, tra virgolette, a usare l'inventario perché sono importanti per proseguire. Esatto. Sì. Non mi sono mai piaciuti. No, vabbè, non è vero. Nemmeno troppo a me, ma questo perché molti, secondo me, la facevano un po' come... Lo facevano male, secondo me, alcuni giochi. I classici esempi, sempre dei giochi a cui ho giocato di più, sono sempre, rimangono quelli di Skyrim, principalmente, di Fallout. C'è una grande differenza, per esempio, tra Fallout New Vegas, sempre, e Skyrim, per esempio. In Skyrim, gli oggetti chiave di una qualsiasi quest venivano generati nel mondo di gioco solo ad evenienza. Cioè se quando tu accettavi quella quest e decidevi di portarla a termine, poi il gioco a quel punto manifestava nel mondo l'oggetto che saresti dovuto andare a recuperare. Questa cosa, ora non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra fosse così in Fallout New Vegas, mi stanno venendo dei dubbi adesso, ma dovrebbe essere così. In Fallout New Vegas era gestita diversamente, cioè gli oggetti chiave esistevano a prescindere dalla tua decisione o meno di accettare o meno questa la quest a cui erano collegati. E quindi c'era questa sensazione di imbattercisi per caso, ottenerli inconsapevolmente anche a volte, e che rendeva molto più, come dire, organica l'esperienza di gioco. Tu ti imbattevi in questo punto, in questo strano oggetto, che di nuovo per necessità di codice e tutto quanto, capivi essere subito un oggetto chiave quando non potevi abbandonarlo dall'inventario, quando vedevi che, per esempio, il suo peso era ininfluente, non ti limitava il numero di oggetti che potevi portare, eccetera, eccetera. Ma questo tuo imbatterti per caso ti faceva provare questa sensazione di scoperta, che rendeva molto più interessante l'andare a scoprire a quale quest questo fosse collegato e appunto portarla a termine subito dopo. E c'è questa meccanica di fare gli oggetti chiave in queste due maniere così diverse, che secondo me rendono una molto migliore dell'altra. Concordi qua? Quale? Io preferisco quella dei preesistenti, in cui uno ci si può imbattere anche per anch'io, puro. Ma cioè, a me non piace l'idea di avere qualcosa nel tuo inventario che non puoi togliere o non puoi vendere. Quello neanche a me, però tra le due modalità preferisco la seconda. Deve esserci una soluzione per permetterti di abbandonarli o venderli e poi recuperarli. Cioè ci deve essere, questo non dico a livello ideale, il gioco secondo me dovrebbe permetterti di abbandonarli o venderli e recuperarli quando scopri che invece ti servivano. Esatto. In qualche modo. Lì potrebbe anche essere che forse in un futuro prossimo ci sarà, ma tipo per la limitazione di memoria e cose di potenza. Sì, sicuramente. Cioè, forse questa cosa non era ancora fattibile all'epoca di Skyrim. Alla fine i sistemi che servono per, diciamo, creare una specie di quest o una specie di storia per quell'oggetto quando lo hai abbandonato, o magari anche i salti mortali che devi fare tu come sceneggiatore per giustificare il fatto che magari quell'oggetto ti ritorna o non puoi abbandonarlo, oppure sai dov'è anche se lo hai abbandonato, cioè non lo so, tutte queste cose sono magari difficili da fare ancora, non sono troppo sostenibili, quindi ci sta. Chi lo sa, però magari. Vedremo. E quindi, appunto, come dicevamo, non era così facile molto spesso collegare questi oggetti chiave alla storia in maniera abbastanza organica da renderli come oggetti normali. C'era sempre questo tag, questa etichetta che li definiva come oggetti chiave, non potevano, per esempio, essere persi, non potevano essere abbandonati, non potevano essere venduti, eccetera, eccetera. Ma parlando di oggetti che si collegano alla storia, piaciuto il... Parlando appunto di oggetti che si collegano alla storia, si viene, introduciamo a questo punto penultimo punto dell'episodio, ovvero di come a volte l'inventario possa essere utilizzato anche non tanto di gameplay, per, come dire, con meccaniche in più, ma semplicemente per raccontare la storia del mondo di gioco. Ed è un esempio che si è visto soprattutto negli ultimi anni con l'uscita delle saghe di Dark Souls e tutte quelle che poi ne sono derivate, quindi anche Bloodborne, Sekiro, eccetera, eccetera, e tutte le copie che poi hanno fatto altre case di produzione, in cui appunto ogni oggetto che il giocatore raccoglieva poteva essere analizzato nell'inventario di gioco, e in questo inventario era a disposizione anche una descrizione che spesso ne raccontava la storia, la provenienza, e dava dettagli sul mondo di gioco e a che cosa fosse collegato quell'oggetto in particolare. Ed è una cosa che è piaciuta molto, che ha reso che ha contribuito a rendere famosa la saga di Dark Souls, che era questo modo di raccontare la storia in maniera indiretta, non con cutscene o filmati, cose del genere, ma era questo piccolo racconto che il giocatore metteva insieme trovando particolari oggetti. In poche parole, era il giocatore che andava a ricostruire la storia cercando indizi nel mondo di gioco più ogni volta che raccoglieva un nuovo oggetto. Che cosa pigra? Cioè, come dice, c'ho questo testo di 500 pagine, ma spezzettiamolo un po' e ficchiamo dentro agli inventari. Ti sento molto ostile verso... No, scherzo, no, beh, è solamente perché, come penso ricorderai, ho capito solo alla fine del gioco, il Dark Souls 1, che potevo leggere le iscrizioni più lunghe. Dovete sapere che c'era Marco che mi diceva, ma stai leggendo le descrizioni degli oggetti? Io dicevo, sì, però per me le descrizioni erano, questa è una spada lunga, e quindi non capivo, ok... Poi però ho scoperto che se premevi un pulsante c'era tutta la storia, questa spada è stata presa da questo tizio era questo altro perché ha fatto questo. Quindi sì, diciamo... Tra l'altro c'era da dire anche che in Miyazaki è stato particolarmente bastardo, soprattutto in Dark Souls, perché spesso nascondeva delle statistiche dell'equipaggiamento nelle descrizioni degli oggetti. Per esempio mi ricordo che c'era tipo degli... c'era uno scudo in cui diceva la descrizione questo scudo è particolarmente resistente contro il veleno, contro qualcos'altro, non ricordo, ma che... e poi questa cosa però non si vedeva nelle statistiche dirette dell'equipaggiamento, quindi... E quale delle due era vera? No, era vera quella nella descrizione, inteso... Ah! Uno aveva abbastanza pazienza da andarsi al... Non mi ricordo, non era proprio questo l'esempio dello scudo, però... Era una cosa particolare che adesso non mi sta tornando in mente, ma mi ricordo che c'erano oggetti che se uno aveva la passione completa andava a scoprire servivano anche a qualcosina in più di quanto poteva. Madonna. Ma questo è il mio problema, io sono pigro, cioè una volta stavo appunto giocando a Sekiro questa settimana, ho usato un oggetto che c'era scritto che mi aumentava la potenza di attacco, diciamo così. Mm-hmm. E poi come l'ho usato, la mia barra della salute è stata dimezzata, ho detto, Poi dopo sono tornato sull'inventario e c'era scritto dimezza la vitalità. Ah, ok, allora è colpa mia. Per questo bisognerebbe leggere le clausole legali. Esatto. Comunque sì, vabbè. Va bene, questi erano, diciamo, tutti gli esempi che mi erano venuti a me riguardo inventario come gameplay. Tu, Jacopo, hai qualcosa da aggiungere? O... No, beh, solo appunto il mio punto finale è che personalmente deve essere fatto bene, deve avere senso per il tipo di gioco che ha, e a volte purtroppo è solo una necessità, e personalmente mi piace quando l'inventario è quasi assente o comunque talmente ben integrato che non ha bisogno di un'interfaccia dedicata. Hai bruciato tutte le tappe che dovevano l'ultimo. Ah, scusa. Volevo darti anche l'occasione di andare sull'ultimo punto, no? Assolutamente, perché questo era appunto l'ultima idea che volevamo trasmettere in questo puntato, ovvero che l'inventario, in fin dei conti, è un'interfaccia. E come tutte le interfacce, ci sono quelle fatte meglio, ci sono quelle fatte peggio. E ci sono quelle che andrebbero rifatte, probabilmente. Ora, come dicevamo prima, alcuni inventari... l'interfaccia di un inventario deve essere ben pensata e ben definita. Abbiamo parlato di Skyrim e Fallout in abbondanza in questo episodio. Ma un'altra cosa che va detta è che tutti questi sistemi di inventario che abbiamo citato erano stati pensati principalmente, almeno nel caso di... No, se non sbaglio, anche nel caso di tipo i giochi precedenti come Oblivion, erano stati pensati per le console. E quindi per essere più sfruttabili con un controller in mano. E tutti i giocatori per PC, che si ritrovavano con mouse e tastiera, hanno sempre trovato abbastanza frustranti su entrambe le interfacce, soprattutto quella di Skyrim è sempre stata un pochino odiata per questo. Era stata pensata per essere utilizzata con due joystick, con i due joystick del controller, e quindi una volta che ci si trovava sul computer a dover utilizzare, risultava non proprio intuitiva. Infatti, se guardiamo il mondo delle mod dei videogiochi, una delle più usate e amate, più installate in assoluto, è quella per modificare l'interfaccia dell'inventario di Skyrim, per renderla molto PC friendly in questo caso. E questo è solo un esempio. Altri giochi che potevano fare, ci sono anche molti altri giochi che hanno perso un pochino della loro qualità quando l'interfaccia è risultata meno pensata di quanto sarebbe dovuto. Un esempio classico di un gioco recente, per esempio, è Horizon Zero Dawn, che qua Jacopo probabilmente mi confermerà, perché penso tu ci hai giocato, no? Se non sbaglio, mentre io invece... Horizon Zero Dawn no, e credo che non ci giocherò mai. Per l'interfaccia dell'inventario, ovviamente. Certo, è quello. No, no, è perché mi sembra un gioco troppo incentrato sul crafting e non molto originale come storia, come gameplay. Quindi l'ho un po' ignorato, diciamo. Hai detto bene, non troppo incentrato sul crafting, ma più che altro sulla collezione di risorse per poi magari crearsi un'armatura oppure potenziamenti specifici, non crafting alla Minecraft, però... No, sì, quello che intendevo, sì, è quello che hai detto tu. E una delle lamentele principali è stata appunto che il suo inventario fatto principalmente ad icone fosse praticamente illeggibile. Da intendersi come molto spesso le icone, per potenziamenti diversi, erano tutte uguali tra di loro, se non per magari una leggera differenza di il che rendeva il navigare nell'inventario stesso un incubo. Hanno cercato di renderlo più intuitivo utilizzando le icone al posto del testo, e questo ha reso la cosa meno intuitiva perché hanno deciso di utilizzare sempre la stessa icona per cose diverse. E questo era solo un altro esempio. Jacopo, tu volevi aggiungere qualcosa, che ti ho visto? Come? Volevi aggiungere qualcosa, visto che ho visto che hai ripartito molto deciso? No, questo episodio sto veramente triggerato, cioè mi stai triggerando con tutte questi inventari e questa mancanza di giochi d'avventura. Tu dicevi giochi in cui non è presente un inventario, è un qualche esempio per questo? Questo mi è interessato, non ci avevo pensato a questo. Vabbè, quello che dicevo io era inventario nel senso proprio di gestione estemporanea, mettiamola così. Cioè, ovviamente Halo, come abbiamo detto, ha un inventario molto limitato, che a me piace come idea, ma anche alla fine anche Half-Life 2 o Doom, che hanno un inventario più, cioè, meno limitato, comunque è immediato, perché tu puoi subito premere il pulsante che corrisponde magari all'arma che vuoi usare, e questo secondo me ti permette di avere meno pause, meno interruzioni non necessarie. Hai tirato fuori un altro argomento molto interessante, perché questa cosa qua che dicevi del premere il pulsante per cambiare arma come in Doom, non so se lo sai, è nata proprio con Doom questa cosa, che di appunto collegare i pulsanti numerici ai vari tipi di arma, perché prima appunto, essendo tutti giochi molto più non rilassati, ma come dire, con un ritmo meno concitato. Esatto, meno concitato rispetto a Doom, non avevano mai avuto questo problema di un inventario tra virgolette troppo lento, mentre Doom, che voleva un gameplay molto più accelerato, molto più veloce, appunto tirato fuori questa idea del collegare le armi ai pulsanti per rendere l'esperienza molto più rapida. E ha senso che sia stato Halo uno dei primi a limitare, o forse il primo, non ricordo, a limitare a due le armi, perché sul sul controller non hai 10 pulsanti numerici magari come sulla tastiera. Assolutamente. Quindi Halo ne aveva solo uno per cambiare arma. Altri giochi che non hanno, diciamo, un grande inventario, cioè un grande sistema di inventario, adesso non mi vengono in mente. Mi ricorda un po' Mass Effect, che comunque è un gioco di ruolo, ma ricordo che il primo Mass Effect non aveva proprio un inventario ben... Cioè non è che potevi stare troppo a cambiare armi, potevi giusto, mi sa, cambiare le munizioni speciali e poco altro. Però una cosa dell'inventario che lo rende, secondo me, piacevole è un altro sistema, che è il sistema appunto di looting, di oggetti, che magari ne parleremo in un altro episodio, non lo so, che è appunto trovare qualcosa di più potente, ed è quell'anticipazione di fare dei paragoni e di cambiare, no, l'arma, che anche quello puoi fare una cosa esagerata, tipo Anthem o Assassin's Creed, dove lo fai ogni 5 secondi, però magari sembra una cosa più... Borderlands in questo caso. O Borderlands. Cioè, se lo fai ogni 5 secondi, secondo me diventa... lo sminuisci. Però una cosa più equilibrata ci sta, ripeto. Cioè, il problema è interrompere l'azione senza che sia necessario. Perché ci sta anche interrompere l'azione a volte. Dici, creare un inventario che sia utile al tipo di gioco per cui viene pensato, in questo caso. Ancora, sì, esatto. Che non sì, è sempre quello il punto. Lo fanno alla fine, questa cosa. È sempre quello il punto. E sicuramente avere un gioco che ti permette di avere degli oggetti rapidamente utilizzabili pure è ottimo. Ormai lo fanno quasi tutti. Però avere un sistema che ti permette, per esempio, in Ori, che ne abbiamo già parlato, adesso mi è venuto in mente l'esempio, non so, cioè, ci sto ripensando, è molto allora, è una rottura di cazzo, perché hai solamente tipo 4 pulsanti per le abilità, o 3, però è molto facile cambiare le abilità attive, come è relativamente veloce cambiare le tue abilità passive. Ne abbiamo già parlato, quindi non starò a spiegare di nuovo cosa sono. Quindi, se puoi rendere il tutto molto facile, molto veloce, pure va bene. Per me, cioè, meno devo passare tempo nell'inventario, meglio è. Tu stai dicendo che, in generale, adesso, siccome i giochi sono più ad alta velocità, diciamo, quelli che si fanno, nel senso, molto più d'azione, più veloci, molto più come dire, intuitivi, e che vogliono mantenere un ritmo maggiore, soprattutto quelli usciti di recente, tu dici questa cosa si deve riflettere anche nel sistema di inventario, che non può ogni volta fermare il ritmo del gioco per... Sì, cioè mamma mia, in Divinity Original Sin 2 non puoi... Cioè puoi selezionare degli oggetti di multipli, tipo se vuoi venderli tutti o spostarli, ma devi farlo uno a uno, tasto destro, cioè seleziona, tasto destro. Cioè non è che puoi tipo disegnare un quadrato magari come su Windows, cioè per selezionare più file, e cioè veramente lì il sistema, noi ci abbiamo perso delle ore a girare cose, spostare, vendere, riorganizzare, cioè è fatto bene relativamente, cioè nel senso che ha tutte le funzionalità che dovrebbe avere un sistema classico per un RPG, però veramente mancano tanti, come si dice? Non so come si dice, quality of life, cioè tanti miglioramenti che migliorano la qualità della vita, appunto. E quindi sì, si spera solo che con l'andare del tempo anche i sistemi di inventario poi si svilupperanno in un modo più interessante. E ne approfitto per dire una cosa che mi ero dimenticato, parlando di inventario come gameplay. Uno dei sistemi più interessanti che avevo visto ultimamente era sempre di quel gioco che avevo citato anche la volta scorsa, chiamato Outward, in cui lo zaino del giocatore diventa una vera e propria meccanica del gioco. Tu puoi decidere di... Lo zaino è proprio un oggetto che possiedi, che puoi decidere di abbandonare prima di appoggiare per terra, prima di andare ad affrontare un nemico o in una particolare missione. Questo perché come meccanica esiste che se tu muori nel gioco con in età nel gioco non puoi morire, per, diciamo, perdi più conoscenza oppure vieni catturato o altre cose molto simili. Se vieni catturato con i tuoi oggetti addosso, molto spesso quelli che ti hanno fatto perdere i sensi o che ti hanno catturato poi ti derubano degli oggetti che si trovano addosso. Quindi una meccanica del gioco appunto è quella di lasciare lo zaino da qualche parte prima di andare ad affrontare il gruppo di banditi o mostri o quello che è, per evitare di poi doversi andare a recuperare gli oggetti da quelli che ti li hanno rubati, invece andare solo dover solo andare dove si è abbandonato lo zaino prima di affrontare la battaglia. E questo è un esempio di come il sistema di inventario può essere modificato, può essere reinventato anche. C'è ancora spazio di design per questa cosa. Quindi io penso che abbiamo detto più o meno tutto, direi. Cioè, no? Mi piace l'idea del prossimo GTA dove vai in giro con una borsa della palestra piena di armi e devi lasciarla ogni volta che devi mirare. Mi piace un sacco questa idea. Poi come hanno fatto Red Dead Redemption 2 sarà ancora più, come si dice, realistico, come piace a loro. Comunque, beh, sì, io in realtà non ho molto altro da dire, ripeto, non sono un fan stecato. Qualche altro prima del nostro momento inventari che ci sono rimasti nel cuore o nella testa? Non li chiamerò. Non lo so, nel cuore no, nella testa neanche, forse in un altro posto. Usato per immagazzinare queste cose. Ok, va bene, buona sapere. No, vabbè, in realtà, ripeto, a me è rimasto particolarmente nel cuore quello di Dead Space. E è il primo gioco a cui ho pensato quando mi hai parlato di inventario. Ed è, secondo me, particolarmente significativo. A me è un gioco che è venuto in mente mentre facevamo l'episodio che mi sono scordato di scrivere nella scaletta. Hai mai sentito parlare di Baten Kaitos? No. Baten Kaitos è un gioco giapponese per il GameCube, si torna indietro qua, che penso abbia avuto pochissimo successo al di fuori del Giappone. Io neanch'io ci ho mai giocato, però mi ha sempre un po' interessato per la meccanica del suo inventario, perché ogni oggetto che raccoglievi veniva immagazzinato in carte, tipo, e dopo con gli oggetti che avevi raccolto costruivi praticamente un mazzo per poter combattere, combattevi con le carte degli oggetti che avevi collezionato, se non ricordo male, perché è passato un po' di tempo da questa cosa. E l'idea mi aveva sempre affascinato, anche se non ho mai avuto l'occasione di giocarci. E ho trovato sempre molto carina questa idea degli oggetti che diventavano carte e poi dopo entravano a far parte della meccanica di combattimento. Questo perché ti piacciono le carte? Mi piacciono i giochi, assolutamente, sia ben chiaro, faremo anche l'episodio sui carte. Questo podcast prima o poi. Ricordo male, tipo, era uno dei pochi giochi in cui gli oggetti deperibili deperivano. Inteso tipo, se prendevi una banana e prendevi la carta della banana, dopo una settimana di gioco la banana diventava un marcio. Che oddio. Traumi. Comunque, prima di passare al finale, volevo un attimo parlare di un gioco che in molti hanno odiato, me incluso, però ha senso perché introdurrà un argomento di cui stiamo per parlare, e cioè Alone in the Dark, che è un remake, una specie di reboot della saga. Alone in the Dark era una saga horror, per PlayStation 1, forse anche prima, e hanno fatto una specie di reboot, cioè sono ripartiti da capo con un titolo per... mi sembra Xbox 360 e PS3, mi sembra. E in questo titolo... Allora, diciamo, è famoso per essere brutto, per essere fatto male, pieno di bug. C'è una scena dove tipo devi scappare guidando un taxi che è veramente orripilante, anche guarda, ora fa troppo ridere. Però era pieno di idee interessanti, secondo me, soprattutto per un horror, perché non era solo come Resident Evil 4 dove avevi spazio limitato, ma era tutto su di te. Cioè tu avevi delle tasche, avevi dello spazio nella tua giacca, ed era tutto, quindi tu per gestire l'inventario dovevi spostare gli oggetti in queste tasche dentro la tua giacca, o mi sa forse anche nei jeans, non mi ricordo dove avevi tasche, e tipo per capire quanti proiettili avevi nel caricatore dovevi guardare dentro il caricatore, cioè non era, non c'era nessun... Questa era una cosa molto tipica di quell'epoca, cioè cercare di eliminare tutte le interfacce. Andavano proprio sul realismo più assoluto. Perché... Sì, com'è che si chiamava quella cosa che quando parlavamo di metro hai detto una parola molto sapio? E... mamma mia, ma quella era per... questa interrogazione, manco ti ricordi. Aspetta, sto andando a recuperare. Cioè, era quella parola che descriveva il fatto che tutti gli oggetti di gioco erano dentro il gioco stesso, cioè avevano una rappresentazione, qualsiasi pulsante, qualsiasi interazione doveva essere dentro il gioco. Che è una cosa che anche in Metro si può applicare un po' all'inventario, cioè, anche per l'inventario si può applicare appunto per Metro, ma... Dove l'ho messo? Scheomorfismo, forse. Scheomorfismo, grande. E questa cosa, Leonardo Dark, era... Secondo me era un'idea, un concetto figo fatto un po' male, perché il gioco era abbastanza penoso in alcune interazioni, però, cioè, che ne so, il fatto che potessi fare un lanciafiamme con un accendino e uno spray per i capelli, bellissimo. O il fatto, cioè, era tutto quanto nel gioco, non c'era un fatto di combinare oggetti in maniera artificiale, cioè lo facevi tu con le mani, con i controlli, anche... Molto interessante, molto, come dire, forse anche troppo avanti per i suoi tempi, questo. Sì. È una cosa che molti hanno detto nelle recensioni di quel gioco, questo gioco è troppo avanti, è talmente avanti che non voglio vederlo più, non voglio più sforzarmi di vedere. L'idea di base è molto carina. Sì, e poi è l'esecuzione che purtroppo... è sempre quella che conta alla fine. Sì, cioè il problema principale di quel gioco è che ha messo troppe cose che solo ora sono fattibili, tipo il fatto del movimento del personaggio che... magari a quell'epoca era rivoluzionario, ma... cioè, mi spiego, scusate. Il movimento del personaggio di solito è un bilanciare tra quanto sei reattivo all'input del giocatore e quanto deve essere realistico il movimento. È per questo che quando i personaggi salgono o scendono le scale nei giochi è sempre una cosa strana da vedere. Solo ora, diciamo che ci sono delle tecnologie che sono abbastanza... evolute da, diciamo, avere una buona idea di dove il giocatore andrà a parare con un certo input, e quindi magari anche salire e scendere le scale ora è diventato un po' più naturale. Cioè, proprio addirittura in alcuni giochi hanno proprio un'intelligenza artificiale che cerca di capire dove può mettere certi punti, certi arti, articolazioni, così per non rompere magari il movimento. E però a quell'epoca, diciamo, la lancetta l'hanno spostata troppo verso il movimento naturale. Quindi, cioè, per muovere il personaggio a volte ti sembrava di muovere, un elefante impazzito dentro un negozio di piatti. Cioè, era abbastanza rigido e poco reattivo. E questo insieme al sistema di inventario e i bug e certe cose, cioè... Vabbè... digressione finita, però era per dire scheomorfismo nell'inventario. Molto bello questo esempio. Esempio che, come dicevi giustamente, è il momento preferito, anche il momento episodio, giusto? Hai laggato, ma avrò veramente... Dicevo, come dicevi appunto, questo esempio ci introduce al nostro momento preferito e al momento finale di questo episodio, giusto? Kept you waiting, huh? Esatto. Ho messo lì la sigla, possiamo andare avanti. Perfetto. Tutti lo amano ed eccoci di nuovo al momento Kojima. Ora, beh, direi che sull'inventario come concetto di gameplay potremmo dire che effettivamente l'ultimo titolo creato da Kojima si interessi all'argomento, per così dire. Sì, è una cosa abbastanza minore. Sì. Parliamo appunto di nuovo di Death Stranding, titolo che ormai conoscerete, forse potete anche non giocarlo perché ne abbiamo parlato talmente tanto che probabilmente lo conoscete già anche troppo a questo punto. Ma nel gioco di Death Stranding, Sam, protagonista del gioco, è un corriere, un portapacchi, un fattorino di Amazon, che va in giro per questa America devastata con addosso, letteralmente portandosi addosso, agganciati a qualsiasi parte disponibile del corpo, i pacchetti che deve consegnare. E come stile Kojima, da vero e proprio malato mentale, è possibile nel menu di selezione delle missioni, anche decidere come distribuire i vari oggetti che Sam si dovrà portare dietro nel suo percorso su tutto il proprio corpo. Questo si può dire, ah, cosa carina, ma dici, ah, carina, sarà per bellezza, cosa così. No, questa è una meccanica del gioco in cui il giocatore può effettivamente decidere come distribuire gli oggetti posizionati sul corpo di Sam e sui veicoli che Sam può utilizzare per proseguire nel suo percorso, perché a seconda di come il peso viene ridistribuito sul corpo di Sam, il suo equilibrio viene influenzato da questi oggetti. Se c'è troppi oggetti sulla parte destra, Sam tenderà ad andare a destra e viceversa, così. Fai una colonna di oggetti troppo grandi sulla schiena, sarà più difficile mantenere l'equilibrio. Magari metti gli oggetti più fragili su una parte troppo scoperta del corpo, se vieni colpito o se cadi, questi oggetti si danneggeranno di più, eccetera, eccetera. No, eccetera, hai finito. Questo è il gioco. Poi, secondo me ci sono delle sottigliezze non so se sono state colte alla perfezione, perché questa è più una mia sensazione. Non ci sono conferme da parte di giornalisti o da Kojima stesso, cose del genere. Sì. Ma voglio dire, alla fine il sistema mi dice: addio, ma che. Come, scusa? Hai laggato. No, dicevo, con tutto questo sistema uno dice: ah, mamma mia, ma che cos'è? Siamo pazzi, devo stare qua a perdere delle ore qua a posizionare gli oggetti, eccetera, eccetera. No. C'è il pulsante triangolo del controller che aiuta, velocizza tutta la cosa, in cui diciamo ti trova il posizionamento ottimale degli oggetti per proseguire più rapidamente nel gioco. E secondo me questa cosa qua, questa è la mia sensazione, Kojima l'ha messa a malincuore un po'. Secondo me lui all'inizio non voleva metterlo il pulsante triangolo che distribuiva tutto il peso, quindi voleva far perdere i giocatori di gioco a missione. Ci stavo pensando pure io, in realtà. Secondo me è vero che. Lui l'avrebbe fatto, secondo me. Poi ha visto che, tipo, effettivamente non c'era gente abbastanza pazza quanto lui, troppo. Almeno non c'era abbastanza gente pazza quanto lui in giro per stare lì 6 ore a ridistribuire il carico su Sam. Quindi ha detto: ok, dai, mettiamoci anche il pulsante per farlo in automatico. È che l'interfaccia non aiuta anche qui, non ti aiuta a mettere le cose dove vuoi, quindi è soprattutto per il 99% delle missioni il pulsante auto è diciamo è abbastanza, cioè fai il lavoro che dovresti fare tu essenzialmente, e se puoi avere solamente una soluzione ottimale, secondo me diventa solo un tedio. Cioè, non è. Se la distribuzione del peso ottimale per tutte le situazioni è solo una, forse davvero il pulsante autosenso, perché alla fine, diciamo, nel 99% dei casi è quello, poi nel 1% dei casi in cui ci ripensa un po' di più, ci pensi un po' di più a dove vuoi le cose, perché magari, che ne so... E infatti questa è più una mia sensazione, secondo me Kojima voleva, come idea iniziale, probabilmente all'inizio del gioco, utilizzare di più questa meccanica di ridistribuzione del peso e di, come dire, ordine dell'inventario su Sam, tutto quanto. Poi ha visto che probabilmente non sarebbe riuscita bene quanto pensava. Comunque, cioè, non è che non si usa mai, perché, ripeto, magari un giocatore vuole delle particolari armi o delle particolari oggetti in punti diversi. Assolutamente. In base a quanto li usa, perché magari il suo utilizzo è diverso rispetto a un altro. Però, ripeto, cioè, secondo me alla fine si è reso conto che non conveniva rompere i coglioni per il 99% del tempo, giusto perché per renderlo uguale a quell'1% invece davvero importante. E soprattutto la vera, come posso dire, la vera importanza di questa distribuzione arriva solo quando sei fuori, quando stai giocando al vero gioco, tra virgolette, cioè all'esplorazione e al... non lo so, vabbè. Dici più l'endgame, diciamo, la parte non tanto di missioni, ma più esplorativa del gioco. No, vabbè, dico, secondo me per Kojima la parte più importante non era l'inventario in sé, quella interfaccia lì, ma era come esplorare, come navigare, come mantenere il controllo, come decidere dove andare, eccetera. Boh. Dici, il focus del gioco non era sull'inventario. Non credo che fosse lì. Infatti, però... era più un'impressione mia, cioè, secondo me lui avrebbe voluto farlo di più sull'inventario, ma non ha trovato un buon modo per riuscirci. E, come e ha fatto bene, ha deciso di cambiare il focus. Se non ti riesce di farlo, cioè di focalizzare la cosa su un certo punto, non ti ci mettere, nel senso, non fare, come si dice, il testardo, non devi per forza metterlo su quel punto il focus del gioco. Poi ovviamente sono tutte supposizioni, perché a pensare che come era presentato, perché era, sì, cioè tutto elaborato nell'interfaccia di gioco, tutto quanto, mi sembrava così strano che fosse pensato così in profondità e poi così poco influente nel gameplay finale del gioco. Ma non è la prima volta che l'inventario riveste un ruolo importante nei giochi di Kojima. Non nei primi Metal Gear, anche perché erano molto più lineari i primi Metal Gear, quindi gli oggetti che si potevano trovare durante il gioco erano giusto armi in più, oppure le schede per aprire delle porte, e poco altro. Ma negli ultimi due giochi della saga, Phantom Pain di sicuro è l'ultimo, ma Peace Walker era il penultimo. Jacopo? Il penultimo... Tecnicamente sì, mi sa. Sì, mi sa anche a me. Questi due titoli, The Phantom Pain e Peace Walker, come anche Jacopo mi diceva prima, effettivamente l'esperienza di una missione cambia completamente a seconda degli oggetti di portarti dietro all'inizio. Ma cambia proprio come la giochi. Esatto. Vuoi spiegare meglio tu in questo caso? Perché tipo in Peace Walker ricordo che in alcune missioni magari avevo il... Tu avevi, mi sa, diversi preset, diciamo, potevi scegliere fra diversi inventari. E mi ricordo che la stessa missione, magari con un inventario più furtivo, tendevi appunto a stare più attento, a farla molto con calma, così, mentre invece un'altra missione con inventario più d'assalto andavi dritto, sparavi, ovviamente. Però anche c'era anche il discorso, posso dire, di quasi di sfida, cioè di affrontare delle missioni con degli inventari non consigliati, oppure con il leggendario inventario Naked Snake, dove non avevi nulla, se non, cioè andavi in giro senza maglietta, cioè petto nudo, con lanciarazzi e basta. Molto proprio stile tamarro. Però vabbè, anche in, cioè, in The Phantom Pain proprio è direttamente collegato quello che prendi e quello che puoi fare, perché c'è molti gadget, molte azioni non puoi farle se non hai gli oggetti, insomma. Ah. Vabbè, solo questo. Questo qui. Era bello, era interessante come lo stile di gioco di una missione cambiava a seconda degli oggetti che avevi deciso di portarti dietro. E niente, direi che abbiamo detto tutto per oggi, no? Non penso di... Io non credo di avere altri argomenti che... a cui vorrei accennare in questo momento. No, neanch'io. Quindi, detto questo, un saluto da Marco. Un saluto da James. E niente, alla prossima puntata. Continuate a giocare.